Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io ve l'avevo detto, questa l'ultima settimana del sabato del villaggio, poi saremo insieme per tutto luglio solo con RadioTube, ma nel frattempo è arrivata una sorpresa, perché il prossimo sabato saremo insieme per due ore, ci sarà uno speciale sabato del villaggio insieme a RadioTube e saremo a Expo. Quindi poi vi darò tutte le indicazioni su dove trovarci, a che ora trovarci, per venirci a trovare, e ci conosciamo anche di persona a Expo sabato prossimo. Intanto, vi tengo compagnia anche oggi fino alle 18, ma anche voi tenetemi compagnia. Due gli strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag su Twitter #ISDV, come il sabato del villaggio. Ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Le novità della prossima stagione: Carlo Conti a Sanremo, Fabio Fazio a Rischia Tutto, cosa vedremo l'anno prossimo in TV? Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di dating. L'anima gemella ci aspetta in rete, forse. Tanto tanto cinema, tutte le novità nel weekend, ma subito parliamo di maratone. Niente sport, anzi mettiamoci comodi. Ms. Bailey? Do you remember seeing him for the first time? It was so long ago. Who remembers? And we're hoping that you do. I was a happy man back then. But? Well, that's it. There is no but. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. Questo pezzo bellissimo si intitola Container, è di Fiona Apple e lei l'ha scritta per questa serie televisiva che si chiama The Affair. Ho detto maratone perché l'estate è il momento perfetto per le maratone delle serie televisive e abbiamo un espertissimo in studio, è tornato a trovarci Diego Castelli. Ciao Diego. Ciao, buongiorno. Allora ti presento per bene come channel manager di Iris, ma anche fondatore di Serial Minds, www.serialminds.com, ma anche come chiocciola Diego Castelli 82, esatto. Perché così nessuno ti perde di vista e ti possono trovare sempre. Allora, perché abbiamo scelto The Affair? Perché abbiamo pensato un po' maratone, estate, perché sì, uscire, il mare, la montagna, però c'è anche il momento in cui uno si rilassa un po' sul divano, dai. Ma infatti secondo me l'errore che fa la gente che non guarda le serie TV è pensare che quelli che guardano le serie TV poi d'estate smettono. In realtà l'estate è un momento meraviglioso, perché certo, vai, tutto quello che ti sei lasciato dietro allora lo riprendi, perché ho conservato tutto, e quando è gennaio dici questa non la vedo adesso ma la vedo a luglio. Anch'io me le preparo. Quindi, già, esatto, me esatto, le preparo già, ho tutti i registratori e gli hard disk pronti per l'estate. Maratone di serie già iniziate, serie che vogliamo vedere, in particolare questo è periodo di rinnovi, conferme, quindi magari prepariamoci sulle serie che stanno per iniziare in America, che sono state confermate, quindi sappiamo che sono andate bene e quindi non corriamo il rischio di iniziare una serie che poi ci abbandonerà dopo poche puntate, esatto, che è un dolore, magari a noi piace e poi sappiamo che l'hanno cancellata. Questa The Affair a me è piaciuta moltissimo, anche a te. Anche a sì, te. Sì. No, ma è piaciuta molto. Devo dire che è anche diviso, perché è una serie che gioca su due registi diversi, perché è sia tra virgolette un crime, perché mettono sotto una sorta di mistero legato a un omicidio, ma in realtà poi, come il nome suggerisce, cioè The Affair, che traducendo in italiano la scappatella, non so, una cosa sì, così, sì. In realtà è un dramma romantico morboso che tiene insieme quattro personaggi, due coppie che finiscono col mischiarsi appunto in modo abbastanza torbido, tutto in una atmosfera però vacanziera, estiva, di mare, per cui crea anche questo questo contrasto, diciamo. È piaciuta molto un po' per il cast, ci sono quattro attori veramente bravissimi, e poi perché ti tiene lì proprio per questa tensione misto tra il sessuale e il poliziesco. Per sì, cui... devo dire che ridevamo prima perché ascoltavamo Leonardo Manera che ci precedeva e parlava di sesso. Noi abbiamo detto, vabbè, noi cominciamo con The Affair era e anche lì siamo in tema. Perché Fortina, con i ragazzi io non la guarderei. Sì, sì, sì, no, diciamo che è, diciamo matura in questi casi qui, ecco, si dice una serie matura. Esatto. Che alcuni poi non è piaciuta perché dicono che l'hanno trovata noiosa, ma sai, sono quelle dinamiche per cui se riesci a essere preso dentro dalla storia, da un personaggio, da un attore, allora poi non ti stacchi più, mentre se invece la guardi distrattamente, piuttosto che non ti interessa quell'argomento lì, che ci può anche stare, la lasci perdere. Però è sicuramente, questa è una delle serie confermate di Showtime anche per il 2015, questa è una da recuperare. E poi in generale è stata un'annata comunque con tante cose nuove, mica nuove, da recuperare, e tante cose che sono finite. Quindi... Poi parleremo anche di quelle finite. A proposito di quelle nuove, o più o meno, gli orfani di Breaking Bad avevano trovato consolazione. Consolazione, direi di soddisfazione. Sì, secondo me sì, perché il suo prequel Better Call Saul aveva addosso una, come dire, un'aspettativa gigantesca, perché vieni da una delle serie più acclamate degli ultimi anni. È chiaro che non fa lo stesso effetto, nel senso, prendere un personaggio che non era il personaggio principale dell'altra serie e fare una serie su di lui, chiaramente non ha quel peso anche mediatico che poteva avere poi Breaking Bad. Allo stesso tempo però il livello è rimasto altissimo, cioè avevamo davvero paura, siccome a un certo punto sembrava dovesse essere una comedy addirittura, invece no, è un dramma alla Breaking Bad, è un dramma tutto orizzontale, è un dramma preciso e con la stessa livello autoriale che aveva Breaking Bad. Poi i tempi sono diversi, come dire, le bolle mediatiche che si formano sono anche diverse, vanno ognuno per i suoi momenti, però se per i fan di Breaking Bad, Better Call Saul secondo me è una cosa a cui aggrapparsi proprio con le lacrime agli occhi, cercando di rimanere con la speranza che la prossima stagione compare uno di quelli che c'era, certo, nell'altra, perché funziona, certo, anche così alla fine. Certo, quindi confermato anche Better Call Saul. The Nick, a me ha fatto un po' impressione la storia di questo, mi verrebbe da dire, macellaio, più che chirurgo perché un chirurgo in anni in cui diciamo che la chirurgia non è esattamente quella di oggi. Piaciuto però The Nick, anche questo si può recuperare come maratona la prima stagione. Si può recuperare, anche questo è una serie con pochi episodi, la prima stagione diciamo che si va poco oltre la decina, e sono di nuovo, molti la considerano una delle cose migliori da vedere, proprio al di là della storia che comunque è costruita bene, c'è una bella trama, anche qua buoni attori eccetera, è veramente una delle serie meglio messe in scena di questo periodo, ma banalmente anche perché ci hanno buttato dentro un sacco di soldi e lo si vede da scenografie e riprese in esterna, che calcolando che è ambientato appunto un secolo fa a momenti, stupisce, perché dici come siete riusciti a ricostruire tutta questa cosa in una serie TV, sai, per la famosa questione tra la serie TV e il cinema, no? Ecco, qua siamo veramente dalle parti del cinema in termini di budget e di immagine, diciamo. Anzi, a volte certi budget il cinema se li scorda, perché ce ne vuole. Devo dire che però perlomeno il budget della serie televisiva si spalma su più episodi, sono delle logiche diverse, però c'è da dire che effettivamente The Nick è un altro che mettiamo nel nostro elenco, anzi se qualcuno sta prendendo nota, che così se li può ricordare per queste maratone estive. Ieri è stato il giorno dell'hashtag Love Wins, la Corte Suprema ieri ha consentito i matrimoni gay in tutti gli Stati Uniti, qui oggi è il giorno del Milano Pride. E quindi direi che libertà di amare, libertà anche di vivere consapevolmente e con coraggio la propria sessualità. Chi più del protagonista di Transparent? Sì. Direi che di quella abbiamo parlato tantissimo. Torna Transparent, è stata rinnovata a furor di popolo, non c'è mai stato dubbio, perché appena è uscita, anche quella è uscita su Amazon, quindi tutta in una volta, le persone hanno avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in un colpo solo, diciamo, e quella ha colpito immediatamente. Quando si parlava di grandi budget, ecco, qui un grande budget non c'è, perché è un lavoro molto più intimo, intimista, con pochi attori, con una storia tutto sommato lieve e banale nel suo svolgimento. Sì, la storia di un padre di che un padre padre che confessa ai figli di voler diventare donna, di volersi vestire da quel momento in poi in padre femminile. Un padre transgender che lo è sempre stato nel suo intimo, ma si è sposato e ha avuto dei figli come tanti succede, e alla fine però questa sua identità deve venire fuori in qualche modo e decide di comunicarlo alla famiglia. Questo è il concept proprio banalissimo, però la cosa è trattata con una tale delicatezza, una tale proprio amore per i personaggi, per cui non diventa mai né una cosa sguaiata solo per fare nome, né una cosa banale o poco interessante perché non si scava abbastanza. Ci sono ampi margini anche per divertirsi banalmente, cioè sì, per un'ironia leggera. Il personaggio con il comportamento più tradizionale è proprio lui, perché si scopre che sono infatti, i figli quelli. Sono tutti una banda di matti, tranne lui che poverino in realtà vuole solo vestirsi in un'altra maniera e vivere la vita in un modo un po' diverso come ha fatto fino adesso. Però in realtà è la famiglia che esce di testa. Fa molto divertire. Esatto, uno peggio dell'altro sono. E quindi racconta, diciamo, la società di oggi in una maniera delicata, tranquilla, che però ti fa entrare veramente dentro temi che sono di un certo spessore. E anche questo confermatissimo. Quindi possiamo fare una maratona della prima di stagione. Questo volendo è anche un pochino più leggero di quello che abbiamo detto fino adesso, che uno magari vuole mettersi a vedere l'estate di Nick, magari ti viene un po' d'ansia. A proposito di più o meno leggeri, io, come sai, sono sempre stata una appassionata di Nashville, questa serie televisiva che è ambientata nel mondo della musica country. Invece ho deciso fermamente di appassionarmi a Empire, quella che invece è appena nata, ambientata nel mondo dell'hip hop. Dimmi subito se è stata confermata, perché così mi faccio la maratona per la seconda stagione. Quella non solo è confermata, ma è stato uno dei fenomeni della stagione americana, nel senso che ha veramente battuto dei record di ascolto, ma anche come trend, perché di solito quando si manda in onda una serie TV il primo episodio tende a fare tanto, magari soprattutto c'è stato molto battaggio pubblicitario, e poi cala perché chi vede il primo episodio gli è interessato va via. Invece Empire, adesso non mi ricordo il numero preciso, ma ha fatto tipo 7-8 settimane consecutive di crescita, cioè non solo piaceva, ma la gente arrivava perché probabilmente quelli che l'avevano vista andavano dagli amici a dirgli: no, devi assolutamente vedere Empire. Poi secondo me sta 1, 2, forse 4 gradini sotto in termini di qualità pura rispetto alla serie che abbiamo citato fino adesso. Allo stesso tempo è riuscita proprio a inserirsi evidentemente tra il rap, un cast all black, eccetera, in una nicchia, non è evidentemente una nicchia considerando i numeri che ha fatto, ma in un posto che serviva, e quindi ha fatto un botto totale. Bello. Allora, altra serie da segnare nel nostro elenco di serie da recuperare quest'estate nelle maratone, al fresco dell'aria condizionata sul divano tra una gitarella e l'altra. A proposito di gitarelle, è il momento di andarsi ad aggiornare su come sta andando la situazione su strade e autostrade, perché sono le 15:15, quindi noi ci risentiamo tra pochissimo ancora con Diego Castelli per parlare di serie TV. Il sabato del villaggio. Non c'è bisogno di presentazione, si sente questa sigla e si capisce subito che stiamo per parlare di Mad Men. C'è un ascoltatore che al 349-238-6666 ci chiede se sappiamo qualcosa di Mad Men. Il nostro Diego Castelli, in studio espertissimo, che noi spesso chiamiamo, disturbiamo, ci fa piacere quando ci viene a trovare per parlare di serie TV. Mad Men, no, colpo al cuore. Si fa fatica a parlare di me, mi viene un po' il magone. Mad Men è finita un paio di mesi fa. Non so se l'ascoltatore si riferisce alla sua programmazione televisiva italiana, sulla quale effettivamente non sono molto aggiornato, ma perché c'è un po' un limbo su quella situazione lì. Perché è disponibile sulla piattaforma di Team Vision, se non sì, sbaglio. Sì, mi pare di sì, però appunto trasmissione proprio sulla TV. È rimasto un po' indietro. Sì. In America intanto è finita come il creatore voleva, cioè dopo 7 stagioni pensate fin dall'inizio come tali, e io consiglio veramente di recuperarla. Mad Men è una di quelle serie per cui molti hanno mollato a metà perché era passata la sorpresa iniziale e da un certo punto di vista non si vedeva la fine, e allora creava, siccome una serie comunque anche lenta e pesante, creava un pochino di difficoltà. Però io consiglio assolutamente di andarla a recuperare, perché rimane una delle cose migliori che abbiamo visto in questi anni, e posso garantire che fino alla fine, fino all'ultima immagine dell'ultima puntata, regge alla grande, e la chiusura è proprio una cosa che fa tornare tutto come dovrebbe, quindi... Stavo cercando di fare un po' di conti, sono 92 episodi, quindi ci vuole un l'estate po' per è lunga, fare l'estate è lunga, con 92 sì, episodi a sera, da 47 dai, 40 giorni è finito. Sì, è una bella maratonona. A proposito di belle maratonone di serie finite, che così ci guardiamo tutte le stagioni insieme e ci facciamo un overdose, ti ho chiesto qualche titolo così da suggerirmi. Mi hai suggerito ad esempio CSI, Boardwalk Empire, anche quella finita. Io non mi ero neanche accorta fosse finita. Sì, ha avuto un po' un calo di popolarità, diciamo, più che un calo di qualità, perché in realtà è sempre rimasta quello che era, ma ci siamo un po' dimenticati di Boardwalk Empire, che è finita ancora già a settembre e ottobre, però è ancora lì, rimane una bella perla. Ma quest'anno sono finite talmente tante cose, è finito Sons of Anarchy, che noi, anche per noi di Serial Minds, era un must. È finito Parks and Recreation, che so essere anche un tuo must. Ed è arrivata la notizia l'altro ieri della chiusura di Hannibal, che è un'altra cosa che ha creato parecchio rumore in questi giorni, perché a metà della terza stagione di una serie che non andava benissimo come ascolti, e questo è il motivo per cui l'hanno chiusa, però che andava benissimo in termini di discorso collettivo, chiamiamolo così, hanno deciso di chiuderla. Ora i fan cercano di farla riaprire su qualche altra piattaforma, come perché si fa? Leggevo su Serial Minds che scrivevi praticamente i fan cercano di rivolgersi a Hulu, Amazon, Netflix, sì, a queste nuove piattaforme che prima non c'erano e che già hanno dato modo di recuperare alcune serie che erano state chiuse dalla generalista, penso a Community o anche dei Mindy Project, di cui avevamo anche parlato qui con te un anno fa, che era stata chiusa dalla Fox ed è stata ripresa da Hulu. Sperano che Hannibal, che ha comunque un seguito di fan molto agguerriti, magari non enorme, però fa molto agguerriti, sperano che qualcuno di questi nuovi soggetti la possa recuperare. Diego, non abbandonarci tu, no. Stai qui in studio con me perché adesso vorrei anche andare un po' a curiosare. Si sa che questa è la stagione degli annunci, dei nuovi palinsesti. Questa settimana a raccontarci tutte le novità della prossima stagione è stata la Rai, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutte le novità. Noi abbiamo al telefono il direttore di Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Buongiorno direttore. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Allora direttore, io ho letto con passione i nuovi palinsesti, anzi ero anche lì quella sera. Devo dire, novità non tantissime, se non grandissimi eventi su Rai 1, perché alla fine TV generalista punterà sempre di più sui grandi eventi. Anche tu hai avuto questa sensazione? Sì, decisamente, perché di novità vere e proprio che per la prima volta vedremo qualcosa di diverso, sono più che altro programmi o di seconda serata o comunque di daytime, tipo quelli del calcio con la Gialappa. Quindi cioè, le vere grandi novità saranno delle serate evento a tema molto specifico che caratterizzano già da un po', direi, soprattutto Rai 1. Beh, devo dire che allora intanto l'evento super evento dell'anno scorso, come sempre, è stato il Festival di Sanremo. Una delle notizie che aspettavamo da questa presentazione dei palinsesti era l'annuncio, o meglio la conferma, perché voi a Sorrisi già ce l'avevate anticipato, che Carlo Conti sarebbe stato confermato addirittura per 2 anni, e abbiamo chiesto a Carlo Conti proprio quella sera come l'ha convinto la Rai a rifare Sanremo. Con questa bellissima proposta della direzione artistica, quindi non è la conduzione, soprattutto la direzione artistica, praticamente sottolineare che il lavoro fatto era stato fatto nel modo giusto, nel modo migliore, con dei risultati belli sia da un punto di vista economico, di ascolti e discografico, quindi è una bella responsabilità. È anche un bel modo, per quanto mi riguarda, di festeggiare i 30 anni di Rai, visto che il primo contratto l'ho firmato proprio in questi giorni, 30 anni fa, nell'estate dell'85, con, guarda caso, una trasmissione musicale che era Disco Ring. Quindi insomma è il modo migliore per festeggiare questi 30 anni e questo legame che va avanti in maniera solida, serena e tranquilla. Ci sarà una bella cosa, che credo il direttore Leone abbia già comunicato, del Sanremo Giovani, che avrà una sua serata, non la gara dei giovani, ma come arriviamo ai 6 di Sanremo, i due di Area Sanremo, come ci arriviamo a questi 8 ragazzi, li scopriremo in una serata televisiva, una prima serata, e magari anche con una striscia di racconto che ci porterà a quell'evento lì a fine novembre. Quindi questa è già un'ulteriore novità. Ma il Sanremo numero 2 è più rilassato perché l'anno scorso è andato bene, comunque uno è andato benissimo, o hai l'ansia da numeri? Ma l'altro anno ero talmente rilassato che più rilassato dell'altro anno mi addormento, quindi sarà bene che non mi addormenti, anzi forse un pochino più di tensione, proprio perché senti questa responsabilità, che lo scorso anno è andato tutto molto molto, anche troppo bene. L'unica novità che davvero mi incuriosisce, la stanno ancora mettendo a punto. Direttore, tra poco ti chiedo cosa ne pensi, ma intanto sentiamo dal protagonista, Fabio Fazio, perché ha deciso di rifare il Rischiatutto. Io ho molta voglia di farlo, sarà anche un atteggiamento infantile, ma Rischiatutto per me è davvero una scatola dei giochi. Allora, insomma, l'idea di, nella mia carriera, di poter fare Rischiatutto anche per una puntata sola, è una cosa a cui tengo proprio tanto, per affetto verso la televisione, per affetto soprattutto nei confronti di Mai, con cui ho ricordi bellissimi e tanti anni, diciamo, vicini, e quindi prevale ancora una volta quella sorta di, secondo me sana, me lo dico da solo, incoscienza, in cui però rispetto al calcolo che ti direbbe no, lascia stare, è un rischio pazzesco, tutti diranno che era meglio, ma infatti lo so anch'io che era meglio, non è questo il punto è invece la possibilità di una propria carriera, di dire ho fatto questa cosa. Ti ripeto, se le cose si fanno per calcolo se ne fanno poche e si è più tristi. Io credo che ogni tanto convenga invece anche godere dell'opportunità che una vita così straordinaria come quella di chi fa il mio mestiere, ecco, ti concede di giocarsi delle cose, insomma, di rischiare per l'appunto. È chiaro che è un game in totale controtendenza, nel senso che noi oggi viviamo, e questo che lo rende molto interessante e anche rischioso, cioè noi viviamo in un'epoca in cui a qualunque domanda io posso rispondere su Wikipedia in 5 secondi, quindi in realtà viviamo per la prima volta in un'epoca in cui non è necessario sapere niente. Quali sono i tuoi ricordi invece del Rischiatutto, magari da spettatore o dai quiz di Mike? Mi ricordo ovviamente la conquista della scatola di Rischiatutto come regalo con cui passai estati a giocare, e mi ricordo una volta che Mike venne a Savona, dove io ero bambino, e mio papà mi portò a vederlo perché io pretesi di andare a vederlo, e lui pubblicizzava delle enciclopedie per ragazzi, e quindi in un cinema della città fecero questo incontro la domenica mattina con tutti gli studenti di tutte le scuole, e arrivò Mike Buongiorno, ma tutti dicevano ma no, figurati se vieni, era una cosa assurda allora, e invece arrivò veramente, io me lo ricordo come quello che era, insomma, cioè come una visione, sì, un'icona irraggiungibile, e quella fu la prima volta che io vidi Mike, ero nell'ultima fila di questo teatro che si chiamava Astor, che non c'è più naturalmente, c'è un centro commerciale, e in pieno centro, e lui sul palco di questo cinema, che con un cardigan molto elegante, che venne a pubblicizzare, ma io non so dirti, poteva avere 7-8 anni o 9, una cosa così, insomma, forse 10, insomma, diciamo 73-74, una roba così, insomma, e vabbè, e poi insomma la vita è andata così. E poi la vita è andata così, belli questi ricordi di Fabio Fazio e di Mike Buongiorno. Direttore Vitali, cosa ne pensi di questo Rischiatutto Reloaded, tipo Carosello Reloaded? Allora, innanzitutto Fabio è da tanti anni che ci pensa, e per esempio già l'anno scorso, ora ti rivelo un piccolo segreto, ha chiesto a noi di Sorrisi se avevamo in archivio delle foto a colori di Rischiatutto, perché Rischiatutto andava in onda, io ovviamente, in bianco e nero, e quindi non, Fabio non sapeva, come tutti noi quasi, di che colore fosse la scenografia, il pulsante, il tabellone, eccetera. E quindi noi nell'archivio di Sorrisi abbiamo trovato delle foto a colori di Rischiatutto e gliele abbiamo mandate, proprio perché lui voleva cominciare a studiare, anche questo già un anno fa circa, anche filologicamente, diciamo, l'aspetto scenografico di questo suo sogno. Penso che sia l'unica persona che lo può fare, che lo può rifare Rischia Tutto, perché non è un esperto di quiz, cioè non è, non so, un Gerry Scotti o un Bonolis che sono abituati a fare quiz, però è uno che ama molto diciamo l'aspetto, come dire, drammaturgico della televisione, no? Basta pensare che tipo di teatralità c'è in Che Tempo Che Fa, o anche nei suoi programmi con Saviano, o addirittura in Anima Mia. Quindi penso che sia l'unico che lo possa fare, e sono curioso di vedere come, del resto anche lui ha detto nell'intervista che ti ha dato l'altro giorno, come si faranno a trovare degli esperti in un'epoca in cui nessuno è esperto ma tutti sono esperti di Wikipedia, quindi sì. Però insomma, questa credo sia la vera difficoltà. Tu su cosa parteciperesti, direttore? Storia della allora, TV, io potrei non partecipare, so. No, beh, rischierei moltissimo di fare una brutta figura, quindi mi terrei alla larga dalle cose che faccio per lavoro, anche se ho delle passioni, ma potrei per esempio cimentarmi in letteratura inglese, che è la mia passione proprio personale, oppure sull'Inter, che è un'altra eccolo, passione personale. Ecco. Grazie direttore, grazie Aldo Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, a presto. Ciao, grazie a tutti, grazie a voi. A prestissimo Aldo. Allora Diego, io avrei tantissime domande che però non abbiamo il tempo di fare, che sono arrivate al 349-238-6666, Luigi da Udine, Francesco Zefram, che dal nick io conosco, Italian Subs lo conosco. Facciamo una cosa, io te le giro e rispondi su serialminds.com. Va bene. Perché così hanno tutte, vogliono sapere Silicon Valley, Togetherness, Sense8, Mr. Robot, tante domande. Risponderemo su Serial Minds. Ti chiedo solo una cosa velocissima prima di andare alla pausa, visto che abbiamo detto palinsesti Rai. La Rai, Rai 2 avrà NCIS, Hawaii 5-0, Criminal Minds, Castle, Elementary, arrivano Le Regole del Delitto Perfetto. Qual è il tipo di serie che funziona su una generalista? Quelle che hai elencato, cioè quelle che i crime tipicamente verticali, che invece non è il caso delle Regole del Delitto Perfetto, che consentono alla massa dell'ascolto televisivo, che non è quella che twitta e si appassiona e va a scrivere sui blog come me, ma è quella che si siede davanti alla televisione e vuole vedere un racconto che sia fatto, finito e che sia piacevole da seguire, segue questi crime verticali che funzionano tanto bene qui, funzionano tanto bene in America, e spesso sono quelle che fanno più ascolti di tutti, anche se magari nessuno lo sa, tipo NCIS, che in America è la serie più vista di tutte, non ne parla mai nessuno, però intanto è la più vista di tutte. È fantastico. Diego, grazie per essere stato con grazie noi, chiocciola Diego Castelli 82 per seguirti in qualsiasi modo, www.serialminds.com. A tra pochissimo, perché dobbiamo parlare di tecnologia, tra poco. Il sabato del villaggio. Rieccoci con il sabato del villaggio, 349-238-6666 il numero per i vostri sms, chiocciola Marta Cagnola, il mio account di Twitter, l'hashtag ISDV. Stanno arrivando ancora messaggi per il nostro Diego Castelli, che è il nostro espertissimo, che è venuto a farci compagnia nella prima mezz'ora per parlare di serie TV. Io glieli mando, perché posso, così poi eccolo, c'è già qua io. Enrico Pagliarini, che buongiorno, durante la pausa ha fatto chiesto delle domande, anche lui, cioè, ha approfittato. Però se volete posso rispondere io, posso inventare, posso No, andate a vedere su serialminds.com, perché Diego ha promesso che vi risponde. Allora Enrico, prima di tutto voglio accoglierti come sempre, spero degnamente. Sentiamo. Guarda, sentiamo. Questa volta sono sicurissima. Sì? Ah beh. Meglio di così non potevo, All You Need Is Love. Beh, un po' perché 50 diciamo anni, che sono i Beatles, giusto? Sì. No? 50 anni dai concerti italiani dei Beatles, ne parleremo nella prossima ora di questo cinquantenario, di questo anniversario bellissimo. Un po' perché parliamo di amore. Esatto, allora parliamo di una cosa che si è digitalizzata nel corso, ormai è una cosa un po' vecchia, però è simpatico vedere i paralleli che ci sono tra il dating, che sono poi gli annunci fatti online o sui giornali di una volta, diciamo il parallelo che c'è tra la vecchia maniera sui giornali e quella nuova. Io ho conosciuto un po' di tempo fa un signore di una certa età americano che diceva: io mia moglie l'ho incontrata dopo un annuncio. Ah. Lui mi ha detto: fa col dating. Io però sentendo la parola dating ho subito detto: ah, qui, con Mythic, con parla- una cosa, sì. Sta parlando di computer, però questo signore ha più di 50 anni, ma come mai? No, perché era normale, ma forse anche un po' meno in Italia, però forse anche in Italia, fare annunci sul giornale per trovare la ma fidanzata, pensa, eccetera. Sì. E allora questa cosa nel corso degli anni si è digitalizzata, ci sono un sacco di siti internet che propongono questo servizio, perché è un servizio, e ho scoperto che tra l'altro è molto spesso a pagamento. Ma noi per saperne di più, visto che non sei, io non sono sicuramente esperto. Io sono non sono esperta, ma sono molto curiosa, molto perché curiosa. Secondo me è un mondo interessantissimo e che ci interessi o che non ci interessi personalmente è da conoscere. Ah sì, sì, non c'è dubbio. Allora, Emanuele, buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno Emanuele. Allora Emanuele, da quanti anni tu sei un esperto, esperto diciamo, perché poi lo sei diventato nel corso del tempo, però sei un frequentatore di siti di poi ci dici tu di che cosa? Io più che esperto effettivamente sono un veterano, nel senso che mi sono iscritto per la prima volta nel 2005, però ho iniziato a usarlo seriamente, diciamo così, dal 2009 ad oggi. Chiaramente in questo periodo ci sono state alcune pause, logicamente, però... Perché avrai trovato l'amore in quelle pause lì, no? Perché pensavo di averlo trovato, ai. Effettivamente, però poi dopo... Niente, purtroppo, tra virgolette, sono ancora iscritto, faccio ancora parte di questo purtroppo tipo. Nel senso che quello lì, la freccina di Cupido non è ancora scoccata nel posto giusto. Esatto, pensavo che fosse scoccata almeno 2 o 3 volte in questi anni, però purtroppo era... Beh, quindi io ho risparmiato 10 anni. Era un calesse. No, vabbè Enrico, ma è senti, uno cinico, scusa, come Pagliarino lo troviamo da nessuna parte. Allora, ho risparmiato 10 anni o di soldi o di tempo, non ho capito. Sì. No, per Emanuele, che sì. Allora, spieghiamo subito come funzionano questi siti di incontri. Ma guarda, allora il meccanismo sostanzialmente è analogo quasi per tutti, cioè c'è bisogno di compilare un profilo che è un mix di dati fisici, di hobby, di interessi, dopodiché si inserisce una foto. L'inserimento della foto non è indispensabile, però è fortemente consigliato perché aumenta tantissimo l'interesse nel profilo da parte di potenziali partner. E poi a questo punto ogni sito ha un po' il suo meccanismo per metterci incontro con single che tendenzialmente potrebbero essere compatibili con noi. O il sito stesso propone una serie di profili che soddisfano i tuoi criteri di ricerca, oppure una cosa che va abbastanza di moda ultimamente, ti fa compilare un test psicologico, in alcuni casi anche abbastanza lungo, ci vogliono in alcuni casi anche un'ora, e poi è il sito stesso a proporre dei profili che ritiene siano compatibili con te. Beh, interessante questo. Ci si iscrive, se insomma se c'è un pochino di stile, poi dopo ci si vede e a quel punto diventa tutto reale in tutto e per tutto. Certo, insomma. Dopo dalla parte online si passa alla parte offline, ci si incontra vero e proprio nella realtà. Senti, questi siti sono prevalentemente a pagamento, giusto? Allora, tutti i siti fanno iscrivere gratuitamente, quindi bisogna, cioè, si può tranquillamente iscriversi, si può compilare questo profilo, inserire la foto e mettersi all'interno di questa enorme, diciamo, bacheca virtuale. Dopodiché però per interagire in maniera seria, quindi magari scambiarsi anche più di una mail, c'è bisogno di pagare. E qui ci sono due modalità, quindi quella più comune che è il classico abbonamento mensile, che comunque può arrivare a cifre anche abbastanza, insomma, sostanziose. Cioè tipo, per essere indiscreta? Ma sì, si può arrivare anche a 50 euro al mese. Ah, però, mica poco. Beh, paradossalmente però, adesso magari io sarò anche lì un po' cinica, però se una persona è disposta a pagare 50 euro al mese, evidentemente è davvero interessata, non lo fa per giocare, ecco. Magari anche quella è una scrematura. Esatto, infatti questa è una cosa anche molto importante da dire, ovvero i siti che costano di più, tra virgolette, sono anche quelli in cui c'è più chance di conoscere persone realmente interessate a una storia seria, questo sicuramente sì. Sì, questo è interessante. Senti, dalla tua esperienza, oltre alla maniera classica di incontro, anche valutando questi algoritmi di intelligenza artificiale, tu che cosa pensi? Sono efficaci o funzionano poco? Sì, io devo dire che nonostante appunto la premessa, cioè il fatto di essere ancora nel giro dopo 6 anni. Vabbè, ma questo dipende da mille cose, insomma. Esatto. Devo dire che effettivamente il sistema funziona. Il sistema funziona, l'unico discorso chiaramente, ma questo è dal punto di vista maschile, perché immagino che comunque sia un pochino diverso, è che non è semplice riuscire a farsi notare. Questa è la cosa più difficile, perché sì, adesso il dating ormai è una moda, non soltanto all'estero dove è nato prima, ma anche in Italia, per cui chiaramente c'è talmente tanta gente sia da una parte che dall'altra che è molto difficile che il tuo tentativo di interazione, che può essere una mail, può essere un invito in chat, tutte queste cose, venga recepito. È piuttosto difficile, bisogna avere una certa abilità. Sì. Senti, una delle novità degli ultimi tempi sono le app. Ne stanno tra l'altro nascendo anche recentemente, sembrano quasi funghi quando piove. Sì, è vero. Che differenza c'è tra i servizi classici, dove stai davanti al monitor seduto o davanti alla scrivania sul computer, e invece le app che tendenzialmente le usiamo su smartphone? Ora c'è molta differenza, nel senso che le app, appunto, come hai detto giustamente, vengono usate sullo smartphone, che è uno strumento molto immediato, nel quale la gente non vuole mettersi lì mezz'ora e scrivere mail complesse, eccetera. Quindi diciamo che il meccanismo è diverso, perché l'app deve creare un contatto molto più immediato. Quindi mentre in un sito noi individuiamo il profilo che ci interessa e poi possiamo scrivere anche una mail chilometrica per farci notare, l'app di solito cosa fa? Ci propone una foto e noi semplicemente sulla base di un parametro fisico o di 2 o 3 elementi che sono stati inseriti decidiamo se questa persona ci piace o no. Se ci piace, questa persona riceve una notifica, e se l'interesse è ricambiato, a quel punto si può iniziare a chattare, si può iniziare a scriversi. E poi un altro discorso interessante dell'app mobile è il fatto del GPS, che questo chiaramente manca nella versione sito web normale. Io sono effettivamente molto curiosa in merito anche a questa cosa. Io ne ho provata una per divertirmi, ma sono... Ah, sì, me l'hai raccontata 3-4 volte, ti è piaciuta? No, perché non ho ben capito bene come funzionava. No, mi sono divertita. Mi sono sorpresa di questa cosa. Poi ti confesso anche quale. Adesso ci aggiorniamo brevemente su quello che sta succedendo su strade e autostrade e torniamo ancora insieme per questo argomento davvero appassionante. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme, stiamo parlando con Enrico Pagliarini e con Emanuele di queste app di dating. Scherzavamo qualche istante fa con Enrico, io effettivamente ho provato per pura curiosità una di queste app della quale ultimamente si parla molto, che si chiama Happn. L'ho provata per qualche giorno perché mi incuriosiva e insieme mi spaventava il fatto che grazie alla geolocalizzazione io potessi girare per la città e incrociare persone che avessero aperto la stessa applicazione, e nel caso in cui vedessi qualcuno di carino, interessante, potenzialmente appetibile, diciamo così, avrei potuto controllare sull'applicazione se la stessa persona, esatto, corrispondeva, mandarci un cuoricino e iniziare a chattare. Non so se questa cosa mi appassionava o mi spaventava tantissimo. Adesso mi pare che questa cosa della geolocalizzazione sia particolarmente, particolarmente diffusa, Emanuele? Sì, assolutamente. Diciamo che l'aspetto più interessante dell'app di dating, quindi quella che si usa tendenzialmente col telefono, è proprio il GPS. Il fatto che in qualsiasi momento io posso vedere quali persone che corrispondono ai miei criteri di ricerca, ma sono in zona, sono nelle vicinanze. Poi è chiaro che c'è tutto un altro discorso di privacy su questo, nel senso che io posso sapere la distanza di questa persona, però non ci sarà mai un radar, tra virgolette, attendibile che mi dice precisamente dov'è. E questo perché chiaramente l'altra persona non necessariamente vuole essere contattata, questo sicuramente. Però diciamo, se tu guardi la fotografia, se tu guardi la fotografia e ti guardi attorno, magari la vedi. Esatto. Infatti, diciamo che ho provato anch'io Happn, e allora lui ti dice, l'app ti dice la distanza, però chiaramente non ti dice se nord, sud, ovest, est, comunque certo. Non ha un riferimento più preciso rispetto alla distanza. Senti, però può essere anche 50-100 metri, cioè comunque generale si può essere effettivamente vicini, e se c'è una corrispondenza immediata ci si può trovare per un caffè, per fare due chiacchiere e vedere se... Divertente. Può nascere qualcosa. Senti, abbiamo un minuto prima di salutarci. Ci dai qualche nome? Abbiamo detto Appen, che poi uno deve andare a cercare e trovare il nome giusto, non facciamo lo spelling. Che cos'altro possiamo segnalare? Ma guarda, a livello di siti web, sicuramente Meetic, che è un po' il riferimento di quest'ambito. Poi io uso Parship, uso Edarling. E questo per quanto riguarda quelle che uso io a livello web. Per quanto riguarda le app, abbiamo appunto Appn, abbiamo Tinder, ad esempio, che va in questo momento va molto, e Blinka con due E, che effettivamente hanno tutto questo meccanismo della geolocalizzazione e del fatto che ti propongono una foto con due o tre informazioni e lì decidi se questa persona può essere di tuo gradimento o meno. Bene, Emanuele, poi ti chiederò se si può fare da sponsor, perché Emanuele è simpaticissimo. No, ma infatti io direi che bisogna farlo smettere subito con queste app, cioè, perché bisogna avere sta fidanzata, basta. La troviamo subito. Grazie Emanuele per essere stato con noi. Ciao, a presto. Invito, a presto. Bravo Emanuele, effettivamente che è un mondo, mondo intero. Devo dirti che io su quell'app... C'è un programma sul dating. Esatto, su quell'app famosa mi sono messa a chattare solo con una persona, mi sono accorta dopo poco che lo stavo intervistando, quindi ho detto non sono proprio fatta per questo. Bene. Enrico, la prossima settimana saremo a Expo, se ti va di venirci a trovare a Expo, noi ti accogliamo in questo speciale sabato Radio Adesso vado Tube. A mangiare il panettone. Ah, certo. Non so se l'hai detto che qui al Sole 24 ne parliamo ore. Nella prossima ora, è benissimo. Uno spoiler, come noi esperti di sede, hai fatto uno spoiler. Noi ci ritroviamo tra poco. Dopo il giornale radio delle 16. Nuova me l'ha data il mio pusher, si chiama Dov'è casa mia. Ehi ragazzi, ho un piccolo problema. Che ti prende? Dov'è casa mia? Ed lei poteva essere speciale. Ma non ha fatto niente di positivo. Ecco che succede ai coglioni che si allenano! Ha avuto un effetto positivo su di me. È veramente un brutto momento, devo andare a casa mia. Cacciate quel fantasma! Il ritorno dell'orsacchiotto politicamente scorrettissimo che abbiamo adorato, Ted, esce Ted 2, ma vale la pena andarlo a vedere questo seguito? Lo chiediamo al nostro esperto Franco D'Assisti. Franco, ciao Marta. Vale la pena sicuramente se avete amato il primo film, se vi ha fatto divertire, perché è un tipo di comicità che spinge molto sull'acceleratore della volgarità come cifra proprio stilistica, e che chiaramente mette insieme battute salaci molto spesso a sfondo sessuale, e che quindi, come dire, va bene per chi ama questo genere. In questo senso però il film è sicuramente riuscito, anzi in certi momenti forse addirittura più riuscito del primo, cioè se il primo si reggeva sulla novità e sulla novità che ti lasciava incredulo ovviamente di questo orsacchiotto parlante che diventava l'alter ego di un uomo che non voleva crescere mai, questa volta la coppia è fermata, la sorpresa non c'è più, ma c'è qualche scatto di più per quanto riguarda i dialoghi e le battute. Ci sono riferimenti al cinema, alla politica, a tutto quello che è l'America recente. Ecco, Ted è un personaggio molto americano, però probabilmente fra i film di questa settimana è quello che anche nel nostro mercato potrebbe dare una bella mano al botteghino italiano ormai praticamente estivo e che ha quindi bisogno di titoli forti per poter tenere almeno fino alla fine di questo, del mese prossimo. Anche questa settimana però esce un film dal titolo a dir poco allarmante, Contagious, epidemia mortale. Di cosa si tratta? Ma guarda, è un esperimento molto interessante, Marta, perché il film parte come una sorta di dramma familiare e anche batteriologico. Siamo dalle parti dei tanti film sulle pandemie che si impadroniscono del mondo, eccetera. Però all'inizio il rapporto padre-figlia è il rapporto che guida il film, quindi si sta più sul personale che sul generale. Poi piano piano il film prende un'altra vena, diventa apertamente horror e chiaramente accontenta quel pubblico, quel tipo di pubblico, cioè si trasferisce più su area zombie che non su area Contagion, tanto per raccontarne uno che recentemente era passato anche da Venezia. La cosa bella e interessante di questo film è la prova di Arnold Schwarzenegger, perché è la prova che non ti aspetti. Schwarzenegger l'avevamo visto anche negli ultimi tempi, come dire, fare dell'ironia un pochino la sua cifra stilistica in film come The Last Stand o come Mercenari, cioè giocare con il suo passato e anche con il pubblico che sa chi sta vedendo e che cosa c'è stato alle spalle. Ma stavolta invece è una prova drammatica tutto tondo, nei panni appunto di questo padre con questa figlia contagiata da questa pandemia, e devo dire che la tenuta di Schwarzenegger è francamente abbastanza sorprendente, e quindi un film che riesce ad accontentare più pubblici, chiaramente con una vena noir horror che dovete mettere in conto prima di andarlo a vedere. Franco, anticipazioni della Rosa Purpurea, che come sempre andrà in onda dopo il GR delle 18? Ma guarda, una Rosa Purpurea parecchio trafficata oggi, avremo ospite la Podecaro dal primo all'ultimo minuto, perché ha messo insieme una bella iniziativa a Milano che si chiama Milanifesto, è una mostra dei manifesti cinematografici che hanno come tema i film su Milano o comunque ambientati a Milano negli anni 60, 70, 80, quindi davvero una mostra da non lasciarsi scappare. E poi avremo altri ospiti come per esempio Gwendalina Zampagni, che è una regista giunta alla sua seconda opera di lungometraggio che si intitola Noi siamo Francesco, ed è un film veramente sorprendente, un film tutto girato, ambientato a Bari, che racconta la storia di un ventenne che ha una disabilità molto forte, cioè non ha le braccia, è un ragazzo sveglissimo, molto bello, che però non ha ancora, forse anche perché si auto come dire, si autocensura un pochino per questa sua disabilità, non ha ancora trovato la sua prima volta nell'amore, e il suo amico di sempre Stefano di fianco a lui lo spinge in tutti i modi per cercare di passare questa linea d'ombra. Ecco, il film trattato con una grande delicatezza, senza nessun ismo, senza nessun guaiorismo, pietismo o altro, da Gwendalina Zampagni, e è un film che riesce a raccontarci una condizione senza farne il centro della narrazione. Una bella opera delicata che io consiglio ai nostri ascoltatori di andare a vedere. Grazie, grazie a Franco D'Assisti, e a più tardi con La Rosa Purpurea. Sì, ci sentiamo più tardi, dalle 18 in poi, un'ora insieme per il cinema, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Scegliete il libro, mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, la nostra libera guida, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, la prossima ora dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @ Marta Cagnola, l'hashtag ISDV, cancelletto ISDV come il sabato del villaggio. La prossima settimana però io vi avevo detto che questa sarebbe stata l'ultima puntata del sabato del villaggio, poi saremmo andati avanti per tutto luglio con RadioTube, invece avevo detto una bugia, no, c'è una sorpresa. In realtà la prossima settimana moltissime trasmissioni di Radio 24 andranno in onda da Expo, da lunedì 29 a domenica 5 luglio, tutti i giorni Cuore Denari, Perfetto Giorno, tutti convocati, Focus Economia, La Zanzara, ma sabato ci saremo anche noi, sabato del Villaggio e RadioTube, saremo io e Daniele Bellasio, o meglio Daniele Bellasio e io, vi aspettiamo dalle 17 alle 19 a Expo sabato prossimo, quindi se volete venirci a trovare noi saremo lì. Ma adesso concentriamoci su questa seconda ora del sabato del Villaggio. Cosa succederà? 50 anni fa i concerti italiani dei Beatles, tanti festeggiamenti, si sa, poi è sempre bello poter riascoltare la musica dei Fab Four, lo abbiamo già fatto nella prima ora, lo faremo ancora. La passione per il barbecue nell'appuntamento con Maria Luisa Pezzali, i consumi e le nuove tendenze, i libri con gli imperdibili di Alessandra Tedesco e i consigli per tutti, ma subito il nostro consueto appuntamento con quello che succede a Milano nel Fuori Expo. Detto che saremo stati in clima beatlesiano, non parliamo ancora dei 50 anni dei Beatles in Italia, anche se questa She's a Woman era proprio nella setlist del concerto del 65, in particolare la seconda della setlist del concerto al Velodromo Vigorelli del 24 giugno. Ne parleremo in questa seconda ora del sabato del Villaggio. Perché She's a Woman? Perché parliamo di donne nel primo blocchetto di questa seconda ora. 29-30 giugno, lunedì e martedì, si terrà il Women's Forum Italy 2015, evento inaugurale della Women's Week organizzato da Valore D in collaborazione con Women's for Expo e con il Women's Forum for the Economy and Society. Due giornate di riflessione e confronto tra uomini e donne provenienti da tutto il mondo, tutti i settori della società, sui temi chiave di Expo e sul ruolo delle donne. Ne abbiamo parlato con Anna Zattoni, direttore generale di Valore D. Il Women's Forum Italy è l'evento di inaugurale della Women's Week, delle Women's Week, che sono due settimane di eventi dedicati alle donne, e in particolare Valore D è coinvolto su tre iniziative: quella del 29-30 giugno, che è la prima, il Women's Forum, e poi ne avremo altre due, il 1 luglio e il 7 luglio. Il Women's Forum è un momento di confronto tra persone di azienda, della politica, dell'istituzione e della cultura sui temi chiave dell'Expo: l'innovazione, la sostenibilità ambientale e alimentare, l'equità, la tutela dei diritti e il libero accesso alle risorse. Quindi riusciamo a coprire nell'ambito di questo giorno e mezzo effettivamente tutti i temi chiave di Expo. Women's Week perché conta tanto per una società più giusta, più equa, la valorizzazione delle donne, dei talenti femminili. Infatti il titolo della Women's Week è l'altra metà del pianeta, quindi rappresentare in tutti i contesti sia l'uomo che la donna, e questo in Valore D che ha come osservatorio l'osservatorio delle aziende è fondamentale. Nel tempo sono state sviluppate diverse ricerche che hanno dimostrato che nelle aziende in cui c'è più equilibrio nella rappresentanza maschile e femminile a tutti i livelli nell'organizzazione, le performance economiche sono migliori, quindi le decisioni che vengono prese sono migliori se incorporano le due diverse prospettive, e crediamo che portare questa esperienza anche in un contesto più ampio possa veramente dare un senso a questo titolo, l'altra metà del pianeta. Io ho letto i vostri comunicati e ho letto un po' quelle che saranno le anticipazioni del 29-30 giugno. Parlate di proporre un piano d'azione concreto. In quali modi, da dove volete partire per delle proposte concrete? Allora, il fatto di dibattere di temi molto diversi, dalla catena del valore agricolo all'emancipazione delle donne nella lotta alla fame, all'acqua, alla coesistenza di fame e obesità, portando la prospettiva maschile e femminile su questi temi, ci consente veramente di poterli sviscerare e affrontare. E anche la continuità che si vuole dare a questa progettualità di Women for Expo nel riproporla anche nelle prossime Expo è un piano di azione, quindi alla prossima Expo in Dubai avere comunque un momento Women for Expo vuol dire proseguire questo dialogo. Dopodiché è stata lanciata una Women for Expo Alliance che appunto ha due linee d'azione, una sulla riduzione dello spreco del cibo e l'altra abbattere le barriere affinché ci siano anche più donne nel settore agricolo, che possano essere proprietarie della terra nei paesi in cui non possono essere, siano capaci di produrre di più e meglio. Quindi sono due linee d'azione in cui il ruolo della donna è un ruolo primario nell'educazione e nello sviluppo agricolo. Appuntamento con il Women's Forum Italy 2015 il 29 e 30 giugno a Expo Auditorium e Conference Center, ovviamente a Milano. Adesso però, prima di darci alle informazioni della viabilità, restiamo un po' in tema, perché io ho un appello per i camionisti. Amici camionisti, non potete deludermi. Sentite qui. Allora, racconta la tua strada con una foto. Radio 24 è media partner del Festival Internazionale di Fotografia in Viaggio Cortona On The Move. Racconta la tua strada partecipando al contest TIR Track in Reportage, dedicato appunto ai viaggiatori per eccellenza, i camionisti. Raccontate anche voi l'Italia vista dalla cabina o dal finestrino, il punto di vista di viaggiatore che vede e quello che sente chi sulla strada appunto passa gran parte del suo tempo. Le foto dovranno raccontare il nostro paese, la vita in viaggio, la strada e tutto quello che circonda il mondo dell'autotrasporto. Quindi camionisti con lobby della fotografia, o chissà, magari fotografi con lobby dell'autotrasporto, non lo so. Avete tempo fino al 10 luglio per postare su Instagram e Facebook i vostri scatti utilizzando l'hashtag di riferimento cancelletto track in reportage e cancelletto tir inarrestabili, inserendo all'interno della descrizione Radio 24. I migliori scatti saranno in mostra al Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move, che aprirà il prossimo 16 luglio. Quindi amici camionisti con lobby della fotografia, e so che ce ne sono, potete scoprire i dettagli anche dell'iniziativa anche sul sito www.cortonaonthemove.com, e sono molto curiosa di vedere queste fotografie su Instagram con gli hashtag track in reportage e tir inarrestabili, ovviamente con nella descrizione Radio 24. Noi ci risentiamo tra pochissimo, perché appunto per gli amici camionisti, ma soprattutto per tutti coloro, diciamo in generale, che sono sulle strade, sulle autostrade in questo momento, c'è l'appuntamento con la viabilità. Il sabato del villaggio. È il momento dei libri, 16 e quasi 16 minuti, sì, è proprio il momento di andare a sentire chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Beh, energetico questo blocco dei libri che inizia così molto molto rock. In realtà, cara Alessandra Tedesco, buongiorno. Ciao Marta, grazie per avermi dedicato questa canzone in questa giornata in cui ho un mal di testa feroce. Quell'urlo in cuffia è stato proprio una favola. È trattamento urto. Ma trattamento no, ma è perché urto. Questa musica ricorderà a molti le invasioni barbariche. Ma va. Ma perché io vedo che hai lì un libro lì nella tua mucchio di libri. Nel mio mucchio di libri, cioè ormai siamo arrivati a definirlo mucchio, io non lo quella so. Quella catastina Marta, lì. Vabbè, quella catastina, vabbè, facciamo la catastina di libri. Allora, perché c'è la sigla delle invasioni barbariche? Beh, perché uno dei libri di cui si sta parlando molto in questo periodo è il nuovo romanzo di Daria Bignardi che si intitola Santa degli Impossibili, pubblicato da Mondadori. L'ho definito romanzo, in realtà potremmo definirlo romanzo breve o racconto lungo. Su queste cose c'è sempre grande indecisione, perché sono un centinaio di pagine scritte anche grandi, ecco, diciamo così, e per questo viene definito appunto anche un racconto lungo. La protagonista è una donna che sta per compiere 40 anni, si chiama Mila ed è una donna, sai, quando si arriva verso i 40, Marta, si ha sempre un momento di crisi, si è sempre molto combattuta, vorrebbe fare qualcosa, però ha una famiglia, prova senso di colpa, eccetera, insomma finisce per fare un gesto poco carino nei confronti di se stessa e quindi finisce in ospedale. Qui però incontra una donna, una persona che le racconta la storia di Santa Rita, che viene definita la santa degli impossibili, e vuole quasi indicarle, come dire, la strada giusta. Bisogna dire subito che non è un libro religioso, nel senso che la stessa protagonista non si avvicinerà alla religione per la conoscenza di Santa Rita, ma sarà un esempio per capire che nella vita c'è un modo per acquisire, come dire, il potere, la voglia di fare le cose e di affermare se stessi. E quindi in questo senso la storia di Santa Rita darà una svolta alla vita di Mila. A chi lo consigliamo, a parte i fan di Daria Bignardi, che sono tanti? Ma secondo me appunto alle donne, anche agli uomini che si trovano in quei momenti della vita che hanno bisogno di così, grande cambiamento, hanno bisogno di energia, di ritrovare la voglia di fare, di progettare. Bello, mi piace. Poi romanzo breve o racconto lungo, perfetto per il weekend fuori. Ma diamo anche dei consigli per appunto per chi sta partendo. Romanzo rosa, perché io vedo una copertina di colore rosa. Questa la dedico proprio a Marta Cagnola. Te la dedico perché lo so che tu sei una fan di Sophie Kinsella e insomma quella, per intenderci, di I Love Shopping. L'avevamo rilassa, anche intervistata. Mi diverte, sì, è una lettura piacevole. Ed è uscita con questo nuovo romanzo che si intitola Dov'è finita Audrey, pubblicato da Mondadori. Giuro che è un caso che ho messo insieme due libri Mondadori, insomma non ci faccio caso a questa cosa, però c'è la par condicio, ci saranno anche altri editori nelle segnalazioni di libri. È un romanzo divertente, come spesso sono quelli della Kinsella, ma anche con un risvolto così che fa pensare, perché la protagonista è questa Audrey che ha 14 anni e insomma le è successo qualcosa di brutto a scuola, per cui lei non ci vuole tanto tornare e vive in casa, non esce più di casa, con questi grandi occhiali da sole neri. Insomma, ha una serie di attacchi di panico, non riesce più ad avere rapporti con le persone, cerca di guarire da questa situazione, finché incontra un tale Linus, un ragazzino che in realtà è amico di suo fratello con la mania dei videogiochi, e qui insomma scattano delle emozioni, delle scintille, chissà, forse il cuore, soprattutto la mente di Audrey potrà cambiare. Quindi Sophie Kinsella, Dove è finita Audrey, dedicato veramente a chi si vuole rilassare un pochino, facciamo così. Sì, sì, qualche lettura poco impegnativa, che è come vedere il film rilassante. Lettura rilassante. Sì, sì, per me la lettura estiva perfetta. E poi sempre sul versante comedy, a me non piace tanto chiamarli libri rosa, diciamo sono commedie. Anche perché l'altro è rosa, perché la copertina è rosa. La copertina è rosa. Questo no. Questo no. Allora, lei si chiama Gabriella Genisi e questo libro si intitola Spaghetti all'assassina, pubblicato da Sonzogno. Ora, non vorrei dire Bari, Cioè, se io ancora ma fai allora, apposta. Gli spaghetti all'assassino sono una ricetta tipica di Bari, tanto è vero che i fratelli Carofiglio l'avevano inserita in un loro libro, se non erro si chiamava La casa nel bosco, pubblicato da Rizzoli, credo che la mia mente non mi inganni, dove parlavano anche di ricette, insomma, care alla loro tradizione della nonna, eccetera, e c'erano gli spaghetti all'assassina. Tutti i baresi tu li sai cucinare? No, perché io non ho appreso tanto le tradizioni culinarie baresi, però so fare un ottimo risotto. Che cosa succede in questo romanzo? Allora, Gabriella Genisi scrive dei romanzi rosa gialli, chiamiamoli così, o meglio dei gialli in forma di commedia, in forma ironica. La protagonista seriale si chiama Lolita Lobosco, è un commissario appunto di polizia che opera a Bari, e si intrecciano le sue vicende sentimentali con le indagini, in questo caso ad essere stato ucciso, e come dire, lo chef che ha inventato la ricetta appunto degli spaghetti all'assassina, perché per cucinare gli spaghetti all'assassina ci vuole la padella in ferro nero che si trova solo nella città vecchia, a Bari ovviamente. Ah, interessante, vabbè, amanti di gialli immagino. Sì, amanti di gialli che vogliono sorridere. In genere i libri della Genisi forse sono un pochino più amati dalle donne, ma non è detto, e insomma per chi vuole un giallo però vuole anche divertirsi e poi vuole scoprire soprattutto cosa sono gli spaghetti all'assassina, andate su Google. Sono molto molto curiosa. Abbiamo detto gialli, i fan dei gialli sono tantissimi, e lo dicevamo anche nelle scorse puntate, tutti hanno un libro giallo in valigia per partire. Dove vai se un libro giallo non ce l'hai? Allora, questa volta vi ho portato un thriller di cui avevamo parlato quest'inverno, perché io l'ho riportato perché insomma è un thriller che mi è piaciuto molto, e quindi ricordando i libri un po' da mettere in valigia, da consigliare per quest'estate, ho detto ma sì, ma me lo riprendo. Lui è Sandrone Dazzieri, il thriller si intitola Uccidi il padre. È un thriller forte, insomma, una botta al cuore, nel senso che Sandrone Dazzieri è anche uno sceneggiatore TV, quindi insomma descrive le scene molto molto bene. C'è un bambino scomparso, bisogna indagare, per indagare viene coinvolto una sorta di consulente che a sua volta, quando era piccolo, era stato rapito e tenuto per anni in un silos, e quindi insomma era rimasto piuttosto scioccato da questo evento. Non vi dico di più perché insomma bisogna leggerlo per appassionarsi a questo thriller di Sandrone Dazzieri, Uccidi il padre, consigliato a uomini, donne dai 16 anni in su, direi, mm-hmm, almeno, che vogliono provare un'emozione forte. Poi non vi dico come va a finire, però insomma tenetevi... Ci leghiamo alla sedia per legatevi non sobbalzare. Sedia, assolutamente. Ancora consigli Alessandra? Sì, un libro. Partiamo prima da per chi è consigliato, secondo me. Questo è un romanzo consigliato a chi vuole veramente provare una grande emozione. È un romanzo struggente, secondo me. Bello. Non romantico, è struggente, bello, perché è anche doloroso. Si intitola Cade la terra, l'ha scritto Carmen Pellegrino, pubblicato da Giunti. È un'opera prima e tra l'altro è stato inserito fra i 5 finalisti del premio Campiello, che è il premio che verrà assegnato il 12 settembre a Venezia. Ah, perché ho detto che è un romanzo struggente, scritto anche in modo poetico? Diciamo che il protagonista è un paese, Alento, che sta lentamente franando, quindi gli abitanti iniziano ad andar via a partire, diciamo, dagli anni 60. In questo paese rimarrà una sola donna, Estella, è un'ex monaca che aveva fatto da istitutrice al giovane Marcello. Estella, per vincere la solitudine, inizierà a parlare con gli oggetti, con le cose, e a rievocare i morti, cioè a rievocare le persone che hanno vissuto in quel paese e che hanno tutte delle storie dolorose. C'è chi perderà una figlia, c'è chi arriverà al suicidio, c'è chi perderà i figli durante la prima guerra mondiale, e così via. È veramente un romanzo molto molto intenso. Tra l'altro lei è una scrittrice, come dicevo, esordiente. Sai che nella vita fa l'abbandonologa? E che cos'è l'abbandonologa? L'abbandonologa, lei è appassionata di luoghi, paesi disabitati che sono stati abbandonati. Non le piace l'aspetto della ricostruzione, le piace proprio visitarli e vivere l'atmosfera quando sono completamente abbandonati. E lo cito perché lo dice anche nella quarta di copertina: nel tempo libero partecipa a funerali di sconosciuti. Allora, sembrerà una cosa da ridere, cioè, no, così, no, ma... è in intenso. C'è cioè una ragione. Ho chiacchierato con Carmen Pellegrino, sentirete l'intervista in una delle prossime puntate del Cacciatore di Libri, e lei insomma parte dal concetto che vita e morte sono strettamente legate, quindi non bisogna avere paura della morte, la morte dà senso alla vita, la vita dà senso alla morte. Insomma, leggete questo Cade la Terra, soprattutto pagina 118, secondo me la più bella, ve lo dico. Comincio a segnarmelo allora. Consigli per bimbi, abbiamo ancora pochi secondi, ma almeno un consiglio per ragazzi ci vuole. Cosa mi piace tanto? Il numero 5 di Gabriele Nanni, pubblicato dal Battello a Vapore. Mi è piaciuto molto questo romanzo per bambini e ragazzi, perché gli fa conoscere una parte della storia recente che loro non conoscono, perché siamo negli anni 80, c'è una squadra di basket che deve andare di Rimini, che deve andare a giocare un torneo in Jugoslavia, e qui c'è la squadra, diciamo, avversaria, la Lokomotiva Praga, che naturalmente, insomma, siamo negli anni della Cortina di Ferro, e succedono delle cose per cui insomma i bambini riescono a capire come si viveva quando c'era, ai tempi della Guerra Fredda, ed è veramente un romanzo per bambini dai 6-7 anni in su, molto bello. Il numero 5, Gabriele Nanni. Così hanno voglia di leggere anche d'estate. Grazie Alessandra, l'appuntamento col Cacciatore di Libri? E come sempre alle 6.30 del mattino per i mattinieri, alle 22 per tutti gli altri, poi potete seguirmi su Twitter per essere sempre aggiornati, Ale Teddina. Grazie Alessandra, a presto! Ciao! Per gli Stooges, ma prima di andare in pausa vorrei dare una notizia che è arrivata da poco. Sono molto contenta perché non parliamo di TVI ma di cinema. Non torniamo a parlare delle novità delle quali abbiamo parlato poco fa con il nostro Franco D'Assisti, ma arrivano le notizie sui Nastri d'Argento 2015, il numero simbolo 3 i premi vinti rispettivamente da Anime Nere di Francesco Munzi, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone e Io sulla giovinezza di Paolo Sorrentino. Miglior regista del miglior film 2015, che conquista anche fotografia e montaggio. Anime Nere, Nastri per la migliore produzione e sceneggiatura, ma anche appunto per il montaggio. 3 riconoscimenti anche al racconto dei racconti per i costumi firmati da Massimo Cantini Parrini con la Sartoria Tirelli, il sonoro Impresa Diretta e le scenografie. E arriva anche un nastro alla musica per Nicola Piovani e il primo che abbia mai vinto, Francesco De Gregori, per la miglior canzone nel film di Paolo Genovese, Se è mai stata sulla luna. Invece vorrei festeggiare la migliore commedia dell'anno, che è Noi e la Giulia, il palmarès, le attrici Margherita Bui e Micaela Ramazzotti, gli attori Alessandro Gassman e Claudio Amendola, molto molto bene questi i Nastri d'Argento. Noi ci ritroviamo tra poco per parlare di consumi, per parlare di Beatles, ma addirittura per parlare di panettone. Lo scopriremo tra poco, perché ci ritroviamo dopo una breve pausa. Il sabato del villaggio. Avete sentito poco fa lo spot che ricordava come dal lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio ci saranno molte trasmissioni in diretta negli studi di Radio 24 al padiglione CB6 Italia. Certo, Cuore Denari, Effetto Giorno, tutti convocati, Focus Economia, La Zanzara dal lunedì al venerdì, ma quando avete sentito parlare di speciali e di dirette nel fine settimana, ovviamente la sorpresa è che ci saremo noi con il Sabato del Villaggio e con RadioTube in uno speciale che andrà in onda proprio lì da Expo al padiglione Cibus a Italia dalle 17 alle 19. Veniteci a trovare. Dunque, sabato pomeriggio, sabato 4 luglio saremo lì. Adesso però nella nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, cinema, ma anche tecnologie e libri, è il momento dei consumi. La battaglia è alle porte. Sono tre cacciatori di talenti. Sono abituati a tutto, ma questa è la loro prova più dura. Trovare quello che cercano. Cuore, passione, coraggio, tecnica. È solo una questione di tecnica. Il risultato finale conta solo questo. E questi erano i re della griglia, ma come mai ricominciamo a parlare di questi re della griglia? Ve lo ricordate, Chef Rubio? Ne abbiamo parlato tanto al Sabato del Villaggio, lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, perché oggi la tendenza di cui parliamo è la barbecue mania. Ah, beh, una... la stagione è perfetta. Perfetta, siamo assolutamente allineate, siamo sul pezzo. Una tendenza ovviamente di chiara ispirazione e tradizione americana che ultimamente però si sta radicando anche in Italia. Io ci vedo, Marta, due fattori abilitanti, per così dire: la crisi, perché si va molto meno fuori, si invitano molto di più gli amici a casa, si ottimizza, come dire, il ritrovo magari della domenica, e poi l'esplodere di una tendenza parallela che è quella del gardening, quindi i nostri terrazzi, i nostri giardini sono sempre più belli, più arredati, pieni di mille oggettini, insomma. Quindi insomma tutte queste cose hanno fatto sì che anche in Italia esplodesse questa mania per la griglia. Una passione per quasi 7 italiani su 10, pensa, ce lo dice una ricerca promossa da eBay, dove si segnala tra l'altro una crescita significativa degli acquisti di articoli a tema barbecue. Sono tutti numeri che ci facciamo raccontare da Irina Pavlova, che di eBay Italia è la responsabile comunicazione. Buon pomeriggio, Irina. Buon pomeriggio anche a voi. Buon pomeriggio. Allora, volumi importanti per quanto riguarda gli acquisti di questi articoli. Assolutamente. eBay, come sapete, è un po' uno specchio dei consumi, perché abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di acquirenti attivi in Italia, quindi riusciamo a confermare questa tendenza di cui stavate parlando prima, perché nel 2014 abbiamo visto un incremento di volumi di vendita degli articoli dedicati al barbecue del 12%, e se volete un dato ancora più interessante, nel corso proprio dell'anno scorso gli italiani hanno acquistato un barbecue, un grill o un accessorio a tema ogni 19 minuti. Quindi tutti lì a cliccare, a cercare, chissà cosa cercano gli italiani su eBay, quindi barbecue accessori. Con l'arrivo, diciamo, di primavera il trend è cresciuto ulteriormente, perché negli ultimi 3 mesi, quindi primavera e estate, sono già stati acquistati quasi 8000 oggetti dedicati al barbecue, quindi stiamo parlando del barbecue di diverse tipologie, piuttosto che della carbonella o comunque degli accessori, le pinze, qualsiasi cosa al tema barbecue, proprio barbecue mania. So che voi, Irina, siete andate anche a cercare il giorno in cui comprano di più il barbecue, e guarda caso è... Sì, è un dato sfizioso, guarda caso è la domenica. Ah, il giorno in cui... la voglia improvvisa, dice, ma magari la prossima settimana mi faccio un barbecue, esatto, anch'io, e vado a cercare subito su eBay qualcosa. L'invidia per il vicino che magari aveva tutto il giardino. Perché allestito. Senti il profumino che arriva nelle tue finestre, esatto, dici la prossima settimana lo faccio anch'io. Probabilmente funziona così, chissà, col profumino, Irina. Sì, anch'io penso esattamente così, quindi magari o partecipo mi viene l'invidia, o non partecipo mi viene ancora più l'invidia. Tra l'altro, dai dati che ci avete mandato in anteprima, emerge anche proprio strutturata la tendenza, lo accennavi prima, il più venduto è quello a gas, che è la soluzione perfetta, molto insomma pratica, i puristi preferiscono comunque la carbonella, e poi c'è questa nuova frontiera della pietra lavica, è così? Sì. È così, la cosa che mi sorprende, diciamo, di più, va bene, gas non mi sorprende perché è la soluzione perfetta effettivamente per chi ha pochi spazi a disposizione, con tutti coloro che hanno il terrazzo e magari non possono permettersi di mettere un barbecue, però mi sorprende il fatto che c'è qualcuno che è disposto a spendere le cifre veramente elevate, stiamo parlando magari di un barbecue venduto a quasi 1600 euro. Senza poi non pensare, insomma, Marta, a tutti gli accessori, il grembiule, in tinta, la avendo pinzetta, un padre appassionato, vero? Io ne ho comprato di tutto, ho comprato veramente di tutto, e lui ha speso davvero quelle cifre. Non, io credo che di fronte a quella passione, un tempo noi la vedevamo solo nei film americani, esatto, che si vedeva il capofamiglia col grembiulone, adesso siamo anche noi così. Eh sì, ci siamo fatti americanizzare anche in questo caso. Un'ultima battuta, Irina, dicevamo un abbinamento perfetto con un'altra vostra grande tendenza in evidenza dai vostri flussi di acquisti, che è quella appunto del gardening. Sì, il giardinaggio e arredamento da esterni quest'anno più che mai spopola su eBay, e la crescita pari quasi al 36% con un acquisto ogni 35 secondi, mentre stiamo parlando qua con voi qualcuno già acquistato come minimo 5, 6, 7 oggetti in questo universo. Stiamo parlando della casa e giardino, dove la gente acquista magari anche l'amaca piuttosto che, perché no, un gazebo, ma stiamo parlando anche di coloro che acquistano i semi, bonsai, quindi qualsiasi cosa per ricreare il proprio angolo verde in qualsiasi situazione abitativa. Grazie Rina, bello questo osservatorio di eBay, perché effettivamente voi avete una panoramica generale su quello che si compra, peraltro appunto anche di domenica, anche la domenica pomeriggio, quando uno sente il profumino del vicino. Grazie Irina Pavlova, grazie, responsabile comunicazione di eBay Italia. Grazie. Ciao Irina, grazie, presto. A voi, ciao. Maria Luisa, adesso invece è il momento delle strategie anticrisi, i nostri consigli pratici. Che cosa andremo chissà a esplorare? Beh, ce lo racconta come sempre Cristina Lazzati, la direttrice di Markup Egidio Week. Ciao Cristina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Cristina, cosa ci suggerisci questo fine settimana? Allora, oggi ho due cosine, nel senso, da un lato ho anch'io alcuni dati, mi rifaccio poi all'intervento di eBay adesso, appena sentito, di Netcom, che ci dice cosa acquistano gli italiani online, al di là del gardening, che sicuramente è una moda che sta esplodendo, ma non tutti, ahimè, abbiamo un giardino, però quasi tutti una poltrona, e quindi aumentano i libri. I libri stanno scalando la classifica, che cosa che a me personalmente fa molto piacere, perché se pensiamo che gli italiani mi hanno sempre detto che leggono poco, bene, comunque i libri online se li comprano. Poi biglietti da viaggio e infine abbigliamento. Cosa ci racconta un po' questa tendenza? Ci racconta anche che siamo un pochino più rilassati e felici, o comunque vorremmo rilassarci davanti a un bel libro o magari pensando a un viaggio. Anche perché, sempre secondo l'osservatorio Netcom, che ricordo mette insieme tutti gli e-commerce italiani, ci dice anche che anche se non tutto poi si compra online, stanno aumentando moltissimo quelli che vanno online a ricercare informazioni e notizie sui prodotti che devono acquistare. E al primo posto in questo momento, guardate un po', ci sono sempre biglietti di viaggio, ma anche le attrezzature sportive e infine i ricambi per moto e auto. Insomma, gli italiani quest'anno in un modo o nell'altro vogliono viaggiare con la fantasia e, se possibile, anche con tutto il resto. Quindi uno va online, cerca le informazioni, poi però va in negozio e prova, verifica e compra. È così, è questa la, sì, dinamica. Diciamo che quelli che definiamo i super consumatori, in realtà gli italiani non ci sono quelli che comprano solo via e-commerce o solo in negozio, anzi la maggior parte, un grosso limite nel passato era l'utilizzo della carta di credito, perché gli italiani sembravano un po' diffidenti, ma invece secondo questi ultimi dati solo il 5,6% non compra online per paura di essere frodato sulla carta, tutti gli altri sono molto aperti, un po' per comodità e sicuramente molto per convenienza. Un po' anche perché magari sentono le esperienze positive di chi conoscono. Esatto, anche perché bravissimi i signori di Amazon, che hanno cominciato, adesso lo fanno un po' tutti, mettono online anche quello che sono i giudizi degli altri, quindi in qualche maniera condividi, e oggi come oggi ci fidiamo un po' di più dell'amica piuttosto che del consiglio fatto dall'utente sul sito, piuttosto che della pubblicità più generale e generica. Sono andata anche a vedermi i best seller di Amazon, perché mi sono detta, sì, compriamo tanti libri, ma che libri compriamo? Beh, allora, ha tanta evasione anche in questo caso per il primo posto, perché anche se non è ancora disponibile, perché sarà disponibile dal 3 luglio, al primo posto, indovinate un po' cosa c'è? Grey, l'ultimo libro di E.L. James, che ci racconta il punto di vista di lui, della famosa storia infuocata con tante sfumature di grigio. al secondo posto, però gli italiani diventano un pochino più seriosi e si buttano sui 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. Mi sembra una scelta interessante. Vi darò solo il terzo posto, che è il nostro Papa Francesco con Laudato Si e con la prefazione di Petrini, e che ci parla di ambiente e di cura della terra. Quindi per finire, quindi un po' di gialli, un po' di erotismo, perché c'è anche Fred Vargas, tanti libri per i compiti delle vacanze, perché ormai Amazon da questo punto di vista fornisce, e quindi non mi stupisce il sentiero dei nidi di ragno, così come anche se sta scendendo la coscienza di Zeno, che sono i grandi classici di lettura per l'estate che vengono dati ai nostri ragazzi. Consiglio loro di non solo comprarli, ma anche di leggerli. È un dettaglio quello, effettivamente. Comprarli è sempre un bel punto di partenza, però effettivamente. Beh, però belli questi italiani che leggono, che sognano, che guardano perlomeno anche solo i prezzi delle cose che desiderano. Mi sembra un messaggio di un po' di relax e di distensione dopo tutto quest'anno di strategie anticrisi. Ecco, se posso aggiungere, tu hai parlato di relax e di così lasciare andare un po' la tensione, vi do l'ultima chicca, però in questo caso usciamo dall'argomento di cosa comprano gli italiani online, ma piuttosto questa promozione che io ho trovato simpaticissima di Carrefour, per chi è un po' più teso e non riesce a dormire la notte perché ha un bambino che urla. Infatti il motto è: tuo figlio ti tiene sveglio e tu risparmi su tanti prodotti. Carrefour ha avviato una promozione online per cui dall'1 alle 5 del mattino sui prodotti bambino trovi sul sito una serie di offerte che vanno da almeno 20 al meno 50, anche 60%, in cui c'è latte, pannolini eccetera, ma anche passeggini, seggiolini per l'auto eccetera eccetera. Quindi insomma, se dalle 1 alle 5 il bambino urla e siete svegli, almeno risparmiate con Carrefour.it. Beh, come geniaci del marketing, è bellissima la notte insonne, fantastico. grazie Cristina Lazzati per essere stata con noi. A presto, Cristina. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa invece, in quest'ultimo sabato del villaggio, in attesa poi degli appuntamenti estivi, diamo però anche l'appuntamento domani con Essere Vere. Domani alle 15, come sempre, non mancate. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Ore 21:30. Davanti a me ho una foto di un biglietto di tribuna. Riduzione della rivista Ciao Amici, costava 750 lire. Era il biglietto per andare a vedere i Beatles al velodromo Vigorelli di Milano. 50 anni fa, 24 giugno 65, a organizzare questo tour italiano dei Beatles fu Leo Vechter. Per ricordare quell'evento pop entrato a far parte della storia del costume italiano, Chiama Milano ospita presso la sede di Via Laghetto 2 un ricordo attraverso fotografie e memorabilia. Noi abbiamo incontrato la figlia e custode della memoria del leggendario Leo Vechter, Patrizia Vechter. 50 anni fa, un momento che non tutti l'avevano capito, ma avrebbe cambiato la storia della musica anche in Italia. Cosa succedeva 50 anni fa? Allora, 50 anni fa, forse non l'avevo capito neanch'io, devo confessare, perché ero molto giovane. Mio padre, che si chiamava Leo Vechter ed era un impresario teatrale, aveva intuito che un gruppo inglese avrebbe fatto parte della storia ed è riuscito attraverso sue conoscenze a far venire i Beatles in Italia, ed è stato l'unico tour che i Beatles hanno fatto in Italia. Devo dirti onestamente che al momento anch'io non capivo quale cosa pazzesca stavo vivendo. Negli anni mi sono resa conto di quale privilegio ho vissuto. C'è una foto bellissima che ti ritrae con i quattro Beatles, una foto che tra l'altro tu hai messo in copertina del libro che hai dedicato a tuo padre. Che ricordo hai di quei momenti? Beh, ho un ricordo molto particolare, perché intanto io ero molto giovane e soprattutto essendo un po' più vecchietta adesso, quella era una generazione, quando si erano giovani veramente, però loro erano molto gentili, molto cordiali, molto disponibili, per cui tutti i giorni della tournée con loro è stata una cosa indimenticabile. L'unica cosa è che poi la sera tornavamo negli alberghi, loro andavano fuori a divertirsi, io venivo mandata a letto, naturalmente. Sì. Però l'emozione grande di Milano, di vedere tutta quella gente, genitori che cercavano i figli, mamme che piangevano perché li avevano persi in quel momento, la polizia che è un ricordo che mai si cancellerà nella storia della mia vita. Questa mostra che tu hai organizzato a Milano racconta l'arrivo di un grande gruppo, ma la figura di tuo padre, sì, anche, che ha fatto tanto per la città di Milano ma anche per il mondo della cultura in Italia. Sì, è vero, io ho organizzato questa mostra veramente in onore di mio padre, perché siccome nei prossimi 50 anni non ci saremo più a raccontarlo, ci tenevo molto che ogni tanto la città si ricordasse di che cosa ha fatto lui, perché in effetti oltre al Teatro Ciacco, oltre a fondare la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, oltre a una serie di enormi concerti, lui ha un po' cambiato la storia dei concerti della musica in Italia, ha fatto veramente molto, e spesso la gente tende a dimenticarsi di quali sono state le persone che veramente hanno fatto qualcosa e lottato per questa città che mio padre ha sempre amato veramente moltissimo. È stata la sua casa, era un ebreo scappato dalla Polonia, già stato in campo di lavoro con suo padre a Dachau, e qui ha potuto ricostruire una vita. Patrizia Vechtar poi si è occupata soprattutto di cinema, ma tu li ascolti i Beatles, li ascolti ancora la musica, vai ai concerti? Allora, non vado tanto ai concerti, non vado tanto al teatro, ma questo per un rapporto difficile che ho avuto dopo aver finito la mia storia con il Chuck, però ascolto molto la musica, per esempio Across the Universe è uno dei film che mi sono più piaciuti negli ultimi anni, ma ascolto per esempio in macchina moltissimo musica e moltissimo ancora i Beatles, che sono canzoni che amo molto. Mostra la Feltrinelli fino al 9 luglio, anche Genova saluta i 50 anni dei Beatles in Italia e Giardini Luzzati, il giovedì 2 luglio alla piazzetta Coccagna con un salotto, allestimenti, beh, bello, bellissimo ricordare questi 50 anni dei Beatles in Italia. Chissà se è un appassionato beatlesiano come me, come noi, Davide Paolini, il gastronauta. Ciao Davide! Ciao, sì, sono anch'io un appassionato di Beatles, sicuramente, li preferisco ai Rolling Stone, quindi anch'io sono da quella parte. Noi più dolci e più appassionati di dolci, posso confessarti una cosa, Davide? Dimmi. Io da questa mattina sono qui al Sole 24 Ore, sto impazzendo letteralmente, perché la sede del Sole 24 Ore è invasa di panettone, ho una voglia di panettone che non riesco più a sopprimerla. Cos'hai combinato, Davide? Ma basta che tu scenda e trovi 47 pasticceri che arrivano da tutta Italia, i migliori, i quali fanno assaggiare e vendono anche i loro panettone d'estate, perché da un po' d'anni, da quando 7 anni fa io scrissi in prima pagina sul Sole 24 Ore che il panettone doveva essere destagionalizzato perché è il dolce degli italiani e doveva essere mangiato tutti gli anni, beh, sta diventando realtà al punto che qui ce ne sono 50, ma ormai in tutta Italia ogni anno l'esercito cresce e si finisce perfino nelle spiagge sotto l'ombrellone a mangiare una fetta di panettone con il gelato. Beh, allora l'hashtag è panettone tutto l'anno, perché il titolo è panettone tutto l'anno. Tu trasmetterai in diretta qui dal Sì, domani alle 12 farò una trasmissione in diretta proprio parlando di tutti i segreti del panettone con il pubblico, quindi che si è già iscritto numeroso, per cui direttamente avrò dei grandi maestri di panettone con me, ai quali farò intervenire e farò insegnare tutti i segreti. Anzi, qui c'è un laboratorio domani addirittura che insegna a fare il panettone a casa, quindi ci sono dei docenti che insegneranno che si può fare anche il panettone a casa, con molta fatica però si può fare. Che meraviglia, quindi sede del Sole 24 Ore, e lo dico per chi non lo sapesse, via Monte Rosa 91 a Milano, panettone tutto l'anno, ci sono workshop, ci sono laboratori, ci sono cose per i bambini. Domani a mezzogiorno c'è anche la diretta dall'evento del gastronauta Davide. Io adesso ho ancora l'ora di RadioTube, poi scendo a sicuramente a comprarmi un panettone, perché ho visto che c'è l'imbarazzo della scelta. Ti farò da guida. Ah, straordinario, Davide, ti ringrazio tanto. Quindi appuntamento qui alla sede del Sole 24 Ore con panettone tutto l'anno, anche domani, e con te domani con il gastronauta. Grazie Davide. Grazie a te, a presto, ciao. Grazie Davide, che meraviglia avere il gastronauta in diretta, mi piace veramente tanto, anche perché ce lo diciamo sempre io e Davide quando ci vediamo, che abbiamo fatto insieme tante cose anche in radio, ma molti molti anni fa, e dovremmo tornare a fare qualcosa insieme presto, speriamo. Intanto comincio a sognare il panettone che mangerò, ma tra un'ora, perché adesso c'è il GR24 delle 17, e poi saremo ancora insieme perché c'è la terza ora del Sabato del Villaggio, che è quella con Daniele Bellasio, con l'attualità della rete e dalla rete. Insomma, sì, lo avete capito, poi sarà il momento di RadioTube.